Ed eccoci, buonasera a tutte e tutti, ci dovremmo stare, si sente, siamo in diretta da Radio Onda Rossa, questa qui è Entropia Massima, Libera Scienza in Libero Stato, per l'inizio diciamo della nostra trasmissione, del ciclo di trasmissioni di quest'anno. Abbiamo fatto l'altra settimana, anzi in realtà forse ormai 2 settimane fa, una trasmissione collettiva per avviare il nostro anno, il nostro 2021-2022, e quest'anno io e il comandante Jacopo, che è qui vicino a me, buonasera a tutti, ecco, funziona il microfono anche del comandante Jacopo, ritorniamo a parlare delle nostre cose. Quest'anno abbiamo deciso tutti quanti, tutti i gruppi che animano la trasmissione Entropia Massima, del lunedì sera dalle 8 alle 9 sulla vostra radio preferita, la radio di chi se la sente, che ricordiamo anche stavolta, lo ricorderemo all'inizio, alla fine, durante, va assolutamente sostenuta, perché è l'unica radio che dal 77 trasmette senza un briciolo di possibilità, e quindi di pubblicità, e quindi no, di possibilità sì, senza un briciolo di pubblicità, nessuno, non ha padroni, possiamo dire quello che ci pare, è la radio di chi l'ascolta, e quindi va in qualche modo, in tutti i modi possibili, sostenuta partecipando alle iniziative. C'è stata una cena sabato scorso, un concerto, ce ne saranno altre e ne daremo pubblicità. Pensavamo quest'anno il tema caldo, è proprio il caso di dire, caro comandante, è il clima, ancora una volta, ne abbiamo parlato tante altre volte, sempre in modo diciamo vago. Quest'anno è balzato di nuovo, in realtà da dopo la pandemia, con l'arrivo dei fondi del PNRR, quindi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l'arrivo dei fondi europei, una gran parte saranno dedicati a quella che viene chiamata transizione, secondo noi erroneamente, cioè non vuol dire niente, la transizione ecologica, tanto che addirittura ha modificato la struttura dei ministeri che normalmente si occupano di questi aspetti qui a livello dello Stato italiano, e ha comportato l'inglobamento da parte del Ministero dell'Ambiente di alcune funzioni del Ministero dello Sviluppo Economico, tipicamente la Direzione Energia ed altre cose analoghe, in un unico super ministero che si chiama MITE, Ministero della Transizione Ecologica, che da quando è stato fondato è presieduto dal ministro Cingolani, un collega del comandante Jacopo, se non erro. È un fisico, È un fisico che si è distinto, e l'abbiamo anche rimarcato diverse volte in questa trasmissione, e non solo in questa, si è distinto per delle curiose affermazioni e anche delle curiose confusioni. Ne abbiamo parlato a proposito, ricorderemo le sue uscite sulla fusione nucleare, poi l'ha mischiata col nucleare, poi insomma non si capisce. Ultimamente a Milano è stato protagonista di una curiosa diatriba, grazie a una specie di registrazione fuori onda con Greta Thunberg, durante la manifestazione, durante il pre-vertice, la pre-COP26, che adesso diciamo che cos'è, e durante l'intervento della diciamo sezione giovanile Youth for Climate, connessa ai movimenti che in Italia sono prevalentemente Fridays for Fusion, Extinction Rebellion, che si di prevalentemente animati da giovani che si occupano di questo tema. E Greta Thunberg sui giornali è uscita con questo bla bla bla, che ha sparato in faccia a chi parlava di transizione energetica e cose del genere, ritenendoli insufficienti. Ne abbiamo parlato l'altra volta, il rapporto anche allo scarto generazionale, come questa generazione che si affaccia all'adultità è la prima generazione che, oltre a doversi confrontare con i problemi anche nei paesi nostri, diciamo nei paesi più abbienti, oltre a doversi confrontare con i problemi legati alla possibilità del lavoro e delle cose, si confronta pure con un tema gigantesco, che è questo del riscaldamento climatico globale, che effettivamente raggiunge dei vertici consente di raggiungere dei vertici di inquietudine giganteschi. Che cos'è la COP26? Introduciamo in questa puntata, volevamo un po' rifare il punto su che cos'è di cosa parliamo quando parliamo di riscaldamento climatico antropogenico, e questo anche per affrontare meglio la preparazione anche nostra politica alle iniziative che forse accompagneranno sia il G20 a Roma che la contemporanea COP26, che si terrà a Glasgow dal 31 al ottobre al 12 novembre, la conferenza mondiale diciamo sul clima, quella che fa la cosa degli accordi di Parigi, così, che dovrebbe poi trasformare le le scoperte rispetto al cambiamento climatico in azioni concrete per ridurne l'impatto in sostanza sulla vita umana sulla Terra. E poi lo vedremo un po' in dettaglio. Quindi si avverrà a Glasgow questa conferenza che curiosamente aveva degli obiettivi fissati per il 2020, visto che è stata a causa della pandemia rimandata, e non si apre con la migliore degli auspici, perché molti paesi nelle conferenze precedenti non hanno dato la loro disponibilità. Intanto c'è un problema anche logistico per alcuni paesi dei meno abbienti e per alcuni paesi oppure di economie emergenti tipo l'India, così di raggiungere la conferenza in modo facile, perché tra lockdown, come si chiama, quarantene per il Covid, difficoltà nei trasporti, non sarà facile per alcuni paesi partecipare, soprattutto per i paesi che poi tutto sommato hanno una importanza rilevante ai fini delle future emissioni. Quindi questa volta, caro comandante Jacopo, forse ti lascio la parola per iniziare, analizziamo e cogliamo l'occasione dell'uscita del rapporto st'estate, del primo rapporto di uno dei gruppi di lavoro dell'IPCC, in particolare, cioè che è l'organismo dell'ONU composto da 200-250 scienziati mondiali che si occupano di revisionare l'intera letteratura sul climatica rispetto al clima, l'intera letteratura scientifica rispetto al clima con cadenza circa quinquennale per ora, e che producono dei report. Quest'estate è uscito ogni report, quello di cui abbiamo parlato in tutti questi anni, in tutte le nostre trasmissioni quando abbiamo affrontato il fattore clima, era l'ultimo report precedente del 2015 e il quinto rapporto, che comprendeva il lavoro di tre gruppi: il gruppo che si occupa delle basi tecnico-scientifiche, cioè delle evidenze più o meno reali, più o meno note del cambiamento, del riscaldamento globale e della sua connessione con le attività umane, e poi altri due gruppi che si occupano di mitigazione degli effetti e di contenimento della cosa. Il contenimento degli effetti del riscaldamento climatico. Quest'estate è uscito il primo report del primo gruppo che si occupa di cambio, ed è proprio il report che fa il punto sulle conoscenze scientifiche e sulle basi scientifiche del riscaldamento climatico globale. Pensavamo che poteva essere interessante come menu, diciamo, di tutte le trasmissioni dell'anno e per affrontare con cognizione di causa questo tema, scorrerlo velocemente insieme, quindi leggere insieme i principali elementi. Giusto, comandante? Sì, giusto. Scorrere velocemente il report è un po' un eufemismo, perché il report è il primo report, appunto, come dicevi tu, Lorenzo, è di 4.000 pagine. Quindi noi quello che andiamo a leggere, insomma, a fare il riassunto del riassunto del riassunto in maniera veloce in radio, è quello che ci sono stati vari riassunti a livello locale. Noi ne abbiamo presi diversi da un sito, per esempio, italiano, in cui appunto fa i riassunti delle basi fisico-scientifiche di questo rapporto, e che è l'IPCC Focal Point Italia. E appunto, come dici tu, è un rapporto vastissimo, hanno contribuito tutti i paesi del mondo, centri di ricerca mondiali da ogni parte, è una comunità scientifica a livello mondiale che ormai da decenni si sta adoperando appunto su questo fronte. La cosa principale è che questo report ovviamente tendono, come abbiamo visto, gli autori tendono a specificare che rispetto a quello scorso è molto più dettagliato. Vado un po' a braccio, leggendo anche un po' i cappelli introduttivi di questi report, perché sono significativi e penso che riassumano molto meglio quello che sto dicendo. Per esempio, la differenza tra il quinto rapporto, cioè quello che è uscito nel 2018 dell'IPCC, rispetto a quello, in questo rapporto scientifico sono migliorate, così dicono, le stime basate sulle osservazioni e le informazioni dagli archivi paleoclimatici. Questo vuol dire che loro ovviamente vanno a comparare ogni volta è tipo una conferma che noi già sappiamo, però è un'ulteriore conferma a livello scientifico. Vanno a vedere come il clima è cambiato nell'arco dell'evoluzione terrestre, quindi i paleoclimi, cioè quelli che sono dietro negli anni, di milioni di anni, per vedere se ci sono state situazioni simili a quelle che noi adesso abbiamo in oggetto, cioè quindi a riscaldamento così repentino, un riscaldamento, una concentrazione, dicevamo prima della radio e Lorenzo mi diceva lui, era 2 milioni di anni fa, penso che c'è stata una concentrazione di CO2 pari a quella che abbiamo adesso. Per adesso non se ne sono verificate altre, quindi archivi paleoclimatici, integrazione di questi dati scientifici a livello paleoclimatico, e che servono appunto per fornire una visione completa di ogni componente del sistema dei suoi cambiamenti fino ad oggi. Poi un'altra cosa fondamentale che loro hanno implementato è che queste analisi si basano su modelli chimico-fisici e climatici molto potenti, quindi delle simulazioni di modelli climatici, nuove analisi e metodi che combinano numerose evidenze e quindi da questo punto di vista portano a un miglioramento. Cosa vuol dire? Che per fare previsioni da questo punto di vista, cioè chi ci dice che, come adesso vedremo meglio, la temperatura nei prossimi decenni aumenta, gli scienziati lo fanno appunto sulla base di grandi modelli numerici utilizzando supercomputer. In questo caso è una collaborazione internazionale e che si chiama questi modelli si chiamano coupled model, cioè modelli accoppiati intercomparison project, in cui praticamente tutti attraverso una base comune, dei protocolli comuni di studio e quindi anche una metodologia comune, però con lo sviluppo di diversi modelli, cercano appunto con questo incrocio di modelli e integrazione di vari modelli numerici sulla variazione del clima, quindi per fare previsioni future, riescono a prevedere ciò che sarà. È una cosa molto scientifica perché si basa appunto, questi modelli non è che sono campati in aria. Una volta che uno organizza un modello climatico, quindi sviluppa un modello numerico e quindi decide quali sono i processi principali che influiscono sul cambiamento climatico, una volta che il modello è stato sviluppato, ovviamente viene vincolato sulla base delle evidenze sperimentali, cioè volta per volta questi modelli migliorano col passare del tempo perché gli scienziati a livello sperimentale sono gli ingredienti che vengono aggiunti volta per volta sempre più dettagliati, sempre più numerosi nel modello per farlo diventare sempre più preciso, cioè in termini tecnici significa per ridurre l'incertezza nei risultati. E questo che è, quindi diciamo, questo è il cuore di questo rapporto tecnico. Ovviamente prendono in considerazione tantissime variabili, i parametri sono centinaia di migliaia che possono spaziare da quelli puramente fisici fino ad arrivare a parametri che influiscono economici, sociali, e da qui hanno ricavato, e adesso ne parleremo dopo il primo stacco musicale, perché è la parte principale di questo rapporto, hanno creato 5 scenari diversi di evoluzione, cioè dal migliore che noi possiamo avere al peggiore, quindi in termini di temperatura e in termini di conseguenze appunto all'aumento di questa temperatura globale mondiale. Sono scenari comunque inquietanti. Ecco, lo preannuncio, adesso ci rilassiamo con adesso facciamo la prima pausa. In realtà prima leggiamo il volo, le cose, le evidenze, poi magari il comandante Jacopo si concentra su questi scenari che effettivamente ci hanno mandato per storto anche l'aperitivo quando stavamo ripassando un po' di musica. La tatuata bella al lavoro non ci va. Ha messo la camicia ma al lavoro non ci va. Quello che vuole altro, altro da questa vita. A consumare le dita per gli altri non ci sta. Padrone mostra il muso, vediamo come sei. Padrone mostra il muso, che lingua parlerai. Da dove arriverai? cercar profitto, sta certo che il mio tempo stavolta non l'avrai. E se lavori duro un motivo ci sarà. E se lavori duro un motivo ci sarà. Che schiavo del lavoro, che schiavo del lavoro, o solo del pensiero che senza non si può. Ti dico che non vengo a lavorar, non vengo, starò con la mia bella sul prato a far l'amore. Voglio girare il mondo, che il mondo è in testa, oh. Voglio girare il mondo, che il mondo è in testa, oh. E non avrò paura, e non avrò paura, padrona mia è la luna e altro io non ho. E non avrò paura, e non avrò paura, padrona mia è la luna e altro io non ho. Ed eccoci qua dopo sta bellissimo canto popolare quasi dei Tre Allegri Ragazzi Ammorti sul lavoro, si chiamava La Tatuata Bella e tutto a voce. Cominciamo così a saltare un pochino da una zona all'altra di questo rapporto IPCC, che ricordiamo è un rapporto che si basa prevalentemente sulla revisione di tutti gli studi della comunità scientifica, quindi diciamo rappresenta il più grosso, questo va detto perché poi ci stanno sempre i negazionisti, cioè gente che cerca di, rappresenta il più grosso compendio di e proprio questo confronto della comunità scientifica rispetto a questo tema mondiale. Quindi tu raccoglie revisione in sostanza tutte gli studi che vengono pubblicati, circa 14.000 mi sembra in questo caso. Sono affidabili le conclusioni del report? Generalmente sì, però le sue conclusioni potrebbero essere addirittura conservative. Allora, il report si è organizzato in quattro grosse sezioni. La prima è lo stato del clima attuale. Vediamo le principali conclusioni, sono divise in A, B, C, D. No, la prima è lo stato del clima globale, i possibili climi futuri, che è quello che affronterà un pochettino il comandante Jacopo, anche lì velocemente, le conseguenze e i rischi, le azioni di mitigazione possibili. Partiamo dallo stato del clima attuale. L'affermazione A1, diciamo, la prima affermazione con cui si apre il report dell'IPCC è che è inequivocabile che l'influenza umana abbia riscaldato l'atmosfera, l'oceano e le terre emerse. Si sono verificati cambiamenti diffusi e rapidi nell'atmosfera, nell'oceano, nella criosfera e nella biosfera. In sostanza il riscaldamento globale è inequivocabilmente causato dall'attività umana. Che cosa significa il riscaldamento globale? Significa che la temperatura superficiale globale, quindi la temperatura, questo è importante dirlo perché molti confondono gli effetti locali di un fenomeno globale e li confrontano, dice piove, fa freddo. Stiamo parlando della temperatura globale media, quindi della media, quindi comprende sia tutti gli estremi, sia dove piove di più, dove piove di meno, dove fa freddo di più, dove fa freddo di meno, il clima artico. La temperatura superficiale globale nel periodo 2001-2020 è stata di praticamente un grado superiore a quella del periodo 1850-1900 ed è stata più alta di 1,09 gradi, quindi siamo arrivati a 1,1 grado nel periodo 2011-2020 rispetto al periodo 1850-1900, con periodi con aumenti maggiori sulla terraferma, 1,60 gradi centigradi rispetto all'oceano. E, ovviamente sono aumentate le concentrazioni di anidride carbonica inequivocabilmente nell'atmosfera, raggiungendo punte che non si vedevano da 2 milioni di anni. Il motivo, quello a cui faceva riferimento prima il comandante Jacopo, cioè erano 2 milioni di anni, ovvero dalla fine del Pliocene, bisogna andare lì, quindi prima di quelle che vengono chiamate le glaciazioni recenti con l'uomo già sulla Terra. Stiamo parlando di 2 milioni di anni fa, in cui era molto diverso, diciamo, il clima globale. Le precipitazioni globali sulla Terra sono aumentate a partire dagli anni 80, questo solo per passare in rassegna alcuni. L'influenza umana è sicuramente la causa principale del ritiro dei ghiacciai a livello globale. Questa diminuzione del ghiaccio è del 40% a settembre, del minimo annuale, e le attività umane hanno contribuito alla diminuzione della copertura nevosa primaverile nell'emisfero settentrionale dal 1950 e allo scioglimento superficiale superficiale osservato dalla calotta glaciale della Groenlandia negli ultimi due decenni, scioglimento che, come sappiamo, da, cioè è una delle notizie che viene più ribattuta forse dai giornali, è in accelerazione e comporta il movimento della calotta glaciale groenlandese verso il mare, in sostanza. Il livello medio del mare globale, ecco, una delle cose, se salzerà o non salzerà, il livello medio del mare globale è aumentato già di 20 centimetri tra il 1901 e il 2018, ed è il tasso di innalzamento ha raggiunto 3,7 mm anno tra il 2006 e il 2018. Le zone climatiche si sono spostate verso il polo in entrambi gli emisferi, e ce ne siamo accorti con la variazione, quella che per scherzo noi paleoclimatologi, qui mi ci metto pure io, chiamavamo scherzosamente la tropicalizzazione del Mediterraneo, è in pieno atto, no? E lo vedi anche dalle specie esotiche che ci sono all'interno dei mari mediterranei. Anche facendo il bagno ormai a Santa Marinella si nota, se uno è un po' ha l'età mia, si nota che anche la composizione della... non bisogna essere dei grandi sub per vedere che la composizione della fauna marina, quindi dei pesci, comporta anche la presenza di ospiti caldi che stanno risalendo il Mediterraneo. E appunto il secondo dogma, dogma non è così, la seconda conclusione dell'IPCC è che la portata dei recenti cambiamenti nel sistema climatico è senza precedenti da molti secoli e molte migliaia di anni. Quello che dicevamo prima, negli ultimi 2 milioni di anni, nel 2019 si sono raggiunte le concentrazioni di 2 milioni di anni fa, la temperatura superficiale globale è aumentata più velocemente dal 1970, e il ghiaccio artico ha raggiunto il punto più basso, quindi lo spessore minore dal 1850, il livello del mare è aumentato vertiginosamente ed è aumentato, l'oceano si è riscaldato più velocemente che mai nell'ultimo secolo rispetto alla deglaciazione avvenuta 11.000 anni fa. Caro comandante Jacopo, 11.000 anni fa è finita l'ultima grande glaciazione, definita Vurmiano da noi geologi e non solo, e il livello del mare, che era molto più basso dell'attuale, era oltre 120 metri più basso dell'attuale perché era congelato, no? Nelle calotte glaciali artiche, si è sollevato abbastanza velocemente, e quindi il fatto che la temperatura dell'oceano si sia riscaldata più velocemente che mai dalla deglaciazione comporta è molto efficace, pensando che negli ultimi 11 anni quello che è avvenuto è pure stato un rinnalzamento del livello del mare di 120 metri rispetto a com'era in Mediterraneo, rispetto a com'era nell'ultima glaciazione. L'altra conclusione è che il cambiamento climatico causa degli eventi estremi dovunque, e quindi quelli che vediamo che ha causato, questo è tutto lo stato del clima attuale, è tutto correlato all'azione umana, ha causato gli incrementi di eventi estremi che purtroppo colpiscono spesso anche l'area mediterranea, come sappiamo, ogni volta che piove tanto. E l'ultima conclusione rispetto alla definizione A4, se vogliamo seguire il rapporto, rispetto al clima attuale, è che la conoscenza del processo climatico, quello che diceva pure il comandante Jacopo prima, è aumentata, e l'affidabilità delle previsioni sono cresciute anche grazie allo sviluppo di modelli che per la prima volta, non so se prima l'avevi detto, sono condivisi a livello mondiale, l'avevi detto, e quindi non sono più cose che ognuno salta di palo in frasca. Sulla base di queste evidenze sullo stato climatico, a quel punto, come il rapporto precedente, il rapporto, la R6, passa la palla a fare le previsioni. Come nel rapporto precedente ci sono degli scenari che hanno cambiato nome, adesso ce li descrive il comandante Jacopo, e a questi scenari, a ognuno di questi scenari corrispondono delle possibili conseguenze. Soltanto alla fine vedremo che cosa si può fare e che cosa non si può fare, cioè nel senso di questi scenari ci possiamo considerare in qualche modo in quale di questi scenari ci possiamo considerare più probabilmente e da quali di questi scenari peggiori ci possiamo salvare. E poi però alla fine, proprio ricordiamocelo comandante Jacopo, facciamo un confronto tra tutte le cose che diremo, che stanno scritte sul report, con gli obiettivi che si mette la conferenza sul clima, perché queste sono indicazioni, ricordiamolo, diciamo, della comunità scientifica, vanno trasformate in azioni concrete, forse per capire il bla bla bla molto sintetico ma efficace di Greta, va bene fare questo confronto, e vedremo che forse qualcosa la riusciamo a commentare anche noi. Prego comandante. Allora sì, io comincerei a dire alcune cose fondamentali. La prima è che l'aumento della temperatura a causa appunto della concentrazione di anidride carbonica è lineare con appunto l'emissione di CO2 nell'atmosfera, ha una correlazione lineare. Ciò vuol dire che insomma da qui non si sfugge, più tu aumenti la concentrazione di CO2 in atmosfera più aumenta la temperatura. Non entro in dettagli, ma ci sono diverse formule empiriche che lo dimostrano. Per esempio, se noi consideriamo il periodo che va dal 1850 al 2019, si possono calcolare con un certo margine di errore, sono state emesse circa 2390 miliardi di tonnellate di CO2, con appunto un errore di 240 miliardi più o meno, e quindi da qui si può stimare anche il budget residuo di CO2 che noi possiamo emettere ancora per contenere la temperatura. Ci sono tre diversi budget qualitativi, quantitativi. Se noi volessimo contenere la temperatura a un grado e mezzo, con un'affidabilità del 67%, cioè di quello che sto dicendo, cioè, quindi con il 60% di affidabilità io dico che la temperatura non sale più di un grado e mezzo, io dovrei emettere al massimo 400 gigatonnellate di CO2. Se voglio che aumenti di 1.7, sempre con la stessa affidabilità del 67%, 700 gigatonnellate. Con 2 gradi posso emettere ancora, mi posso permettere, tra virgolette, di avere ancora 1150 miliardi di tonnellate di CO2 che posso emettere nell'atmosfera. Capite bene che sono, se uno ci pensa, l'obiettivo che ci si pone ovviamente è quello di un grado e mezzo entro la metà di questo secolo, e quindi noi non potremo più emettere più di 400 miliardi di tonnellate di CO2, che è una cosa molto molto bassa. Lorenzo ha accennato, io pure, all'inizio di questi scenari. Perché sono importanti? Perché sono scenari che ti danno la temperatura appunto di quello che stiamo dicendo, il grado di difficoltà e di nel risolvere questi problemi, perché sono comunque scenari difficili da, se volessimo comunque ottenerli, difficili da realizzare, molto, perché sono molto stringenti da un punto di vista appunto di emissioni di anidride carbonica. Questi scenari si chiamano Shared Socioeconomic Pathway, detto anche SSP. Ne sono 5, ne hanno raggruppati in 5. Cosa dicono in generale? Allora, la prima cosa è che tutti e 5 le temperature aumenteranno ancora. Questo è poco, ma sicuro. Bisogna vedere di quanto. Poi, il riscaldamento globale, dicono tutti questi rapporti, determinerà aumenti di frequenza e intensità di eventi estremi. Quindi quello che diceva Lorenzo, inondazioni, uragani, ondate di calore, ancora di più. Quando dicevi che ovviamente bisogna vederlo locale, effettivamente bisogna vedere il riscaldamento come globale e locale, se uno va su scala regionale invece ci sono delle differenze. Questo rapporto introduce anche la scala regionale, uno può andare a vedere anche cosa succede, siccome è molto più dettagliato le analisi scientifiche sono migliorate tantissimo. C'è un sito in cui uno può andare che si chiama interactiveatlasipcc.ch, dove può andare a vedere appunto, dettagliare in maniera regionale, quindi può scegliere, che ne so, il centro Europa piuttosto che il Nord America piuttosto che l'Asia, è divisa ancora di più in sezioni, quindi Est Europa, Ovest Europa, Nord Europa, Sud Europa, e andare a vedere come lì evolverà il sistema. In maniera, per esempio, l'Artico, appunto, come dice, per esempio, ha un tasso di riscaldamento che è 2 volte, se non 3, non mi ricordo. Quindi si riscalderà 3 volte di più rispetto a altre parti del mondo che invece avranno un riscaldamento. Quindi, se si riuscisse a contenere di un grado e mezzo, lì l'Artico arriverà a temperature 3 volte tanto. Ecco, un delta di 3 volte. Quindi è molto grave. Ci saranno zone in cui appunto ci saranno più inondazioni, più alluvioni, e zone invece in cui si avrà molta più siccità. Questo riscaldamento modificherà tantissimo il ciclo dell'acqua, le correnti monsoniche, tutto il ciclo dell'acqua, quindi in tutte le sue forme. modificherà la capacità di cattura degli CO2 degli oceani e dei terreni, e la capacità di, appunto, di cattura della CO2 dei terreni e degli oceani diminuirà notevolmente. Noi sappiamo che per il momento sono gli oceani che riescono a trattenere più CO2, ci salvano gli oceani, ma questo modo di catturare aumenta irrimediabilmente processi di distruzione degli oceani, di acidificazione ulteriore. Ci sono processi, appunto, come dicono qui, tutti quanti sono concordi che molti cambiamenti, anche se noi riuscissimo a bloccare l'innalzamento della temperatura un grado e mezzo, nella migliore delle ipotesi, però ci saranno dei cambiamenti irreversibili che dureranno secoli e millenni, che sono per esempio l'innalzamento, appunto, dei livelli del mare, l'acidificazione dei livelli del mare, lo scioglimento delle calotte polari, e questi sono i principali. Andiamo un attimo più in dettaglio, come si dividono questi cinque scenari. Partiamo da quello, diciamo, che tutti quanti ci auspichiamo, quello migliore, che è stato introdotto pure, è l'ultimo che è stato introdotto, perché quando fu fatto quello prima, il rapporto precedente, non c'era una tecnologia di storage della CO2 nei giacimenti, nei serbatoi geologici, cosa che è una, appunto, adesso ne parleremo meglio, perché è appunto quella la chiave di volta. Ma l'hanno introdotto perché adesso c'è una possibilità, la tecnologia comunque è abbastanza concreta. Quindi partiamo dal primo, che è l'SSP1.9, che è Very Low Emission, che equivale a dire, quindi low emission si riferisce, appunto, alla CO2 in atmosfera. Allora, ci sono tre prospettive, tre orizzonti temporali. La prima si chiama termine prossimo, cioè near term, cioè che va dal 2000, la previsione dal 2021 al 2040. Di questo scenario, in cui noi riusciamo a emettere il minimo possibile di CO2, abbiamo la migliore stima della temperatura sarà di un grado e mezzo entro il 2040. Nel medio termine, tra il 2040 e il 2060, sarà di 1.6, e nel lungo termine, qui il rapporto si spinge fino al 2100, di 1.4. E questo è lo scenario in cui noi non solo arriviamo a zero emissioni nel 2050, ma a negativi, cioè riusciamo a catturare CO2, quindi è come se, anzi, come dobbiamo aspirare proprio dall'atmosfera la CO2 e immagazzinarla nel sottosuolo. Questo è uno scenario nuovo che l'hanno inserito, così come il secondo, che è l'SSP1.2.6, è lo stesso, però in questo caso, invece di very low, cioè molto basse emissioni, qui si va un po' più cauti, un po' più realisti su low emission, basse emissioni, ma sempre con una tecnica di cattura di CO2. E in questo caso anche qui la temperatura viene stimata nel breve termine, fino al 2040, a un innalzamento di 1.5. Diciamo che adesso, fino adesso, tu l'hai detto, Lorenzo, ad oggi la temperatura ha raggiunto un delta di 1.1 rispetto all'era preindustriale. Sì. E poi se lo controlli, quindi, se vai a guardare soltanto la temperatura sulla Terra, è già 1.6. Quindi questo è lo scenario medio. Comprende pure la temperatura degli oceani, che invece sarà di 0,99. Quindi, cioè, nel senso che poi qua mezzo grado fa un casino, lo devi trasformare su tutta la Terra. Appunto, nell'Artico avevi detto prima tre volte, quindi significa 4 e mezzo. E quindi si stima, tu l'hai detto, che almeno ci sarà una stima anche a questi livelli, se riuscissimo a limitare a 1.5, l'Artico nel 2050, almeno entro il 2050, almeno una volta, dicono, con una probabilità di almeno una volta, a fine settembre, che è il periodo di maggiore calore, non c'è più ghiaccio, l'Artico è completamente navigabile, non ci sono più iceberg. È tremendo, anche solo con l'1.5 di temperatura. Quindi, dicevo, questo nel breve termine. Nel secondo scenario, nel medio termine, fino al 2060, di 1.7, e nel lungo termine, fino al 2100, di 1.8 gradi. Poi ci sono gli scenari, quelli invece un po' più, diciamo, inquietanti, perché sono quelli intermediate scenario, cioè lo scenario intermedio, che è l'SSP2, che sono, questo vuol dire che sono emissioni in crescita leggera, con un picco di 45 gigatonnellate di CO2 nel 2050, e dopo, solo dopo il 2050, si ha una decrescita fino a zero entro il 2100. Questo qui determinerà nel breve termine, entro il 2040, un aumento sempre di 1.5, ma le cose, appunto, siccome poi tendono a aumentare e poi a scendere dopo il 2050, ecco, abbiamo che nel 2060 abbiamo un picco di temperatura di 2 gradi, addirittura nel 2100 di 2.7. Lo scenario, il quart'ultimo, è invece high emission, cioè alte emissioni di CO2, vuol dire che c'è una crescita lineare delle emissioni fino al 2100, e in questo caso abbiamo sempre nel breve termine sempre 1.5 rimane, perché adesso, insomma, ecco, 2040, quindi non prevede, è solo una crescita forsennata di sviluppo industriale come stiamo assistendo adesso. Nel medio termine sale di 2.1 fino al 2060 e entro il 2100 di 3,6 gradi globale, quindi immaginate 3,6 moltiplicate per 3 l'Artico. Lo scenario peggiore è quello di very high emission, crescita più che lineare, cioè abbiamo un'emissione, un picco, cioè raggiungeremo un'emissione di picco, il massimo di emissioni di CO2 entro il 2080. A questo punto abbiamo che, ve la faccio breve, ma nel lungo periodo abbiamo un innalzamento di 4.4 gradi centigradi. Questa è la migliore stima, poi ci sono anche i range, ovviamente, di questo 4.4 si può oscillare da 3.3 fino ad arrivare a 5.7, cioè hanno tutti un range di variabilità. Questa è la miglior stima, non entro nei dettagli statistici come si fanno queste cose, però insomma noi prendiamo il dato, il best estimate, come si dice. Ah, una cosa da dire rispetto a quello che dicevi all'inizio e quello che diceva rispetto a queste cifre, no, forse, è che questi modelli sono stati molto molto stressati, quindi il livello l'abbiamo già detto, però hanno verificato che quello che stiamo osservando adesso, ormai dopo tanti anni di studi, nei modelli, se fosse stata fatta la proiezione utilizzando i modelli attuali qualche tempo fa, avrebbe ottenuto lo stesso risultato. Quindi questi modelli sono molto robusti, ecco, lo volevo ripetere, perché sì, uno dice vabbè, chissà se è vero, rispetto alla tua a quello che dicevi dei valori di incertezza, sono molto sempre più ristretti. Sempre più ristretti, quello che dicevo, più tu aumenti, metti nel tuo nei tuoi modelli parametri con un'incertezza sempre minore, più appunto i risultati saranno con incertezza minore. Più sono precisi i dati sperimentali, più quello che tu vai più arricchisci il modello di ingredienti e di parametri, più il modello diventa preciso. E quindi ecco, quindi noi ci troviamo di fronte a questo, a questa situazione qui. Direi che da questo punto di vista, cioè questi scenari parlano chiaro, quello che si deve fare è appunto è limitare il più possibile le emissioni di CO2. Quello che si auspica, appunto, tutti lo auspicano, anche gli autori di questo report, che sia il primo, cioè quello a molto bassa emissione, cioè in cui sia capace l'umanità a succhiare CO2 dall'atmosfera, per porre rimedio in maniera adesso, cioè domani, a questi cambiamenti, perché queste piccole variazioni di temperatura implicheranno invece grandi sconvolgimenti a livello di conseguenza, a livelli di rischi, a livello mondiale, no? E quindi, come dicevi tu, Lorenzo, cosa faranno? No, qui, ecco, rispetto allo stoccaggio, cattura e stoccaggio di CO2, poi magari ne parliamo dopo, facciamo un'altra pausa, così ne parliamo alla fine. C'è molta speranza, in realtà anche l'ENI, la solita ENI, dicono che stanno investendo in fare il più grosso deposito di anidride carbonica sotterraneo lì a largo dell'Adriatico. In realtà questa cosa è connessa con dei progetti di sfruttamento ulteriore delle risorse, diciamo, delle risorse di gas, delle residue risorse di gas in Adriatico, e niente, Cingolani, ecco, se lo vogliamo rimettere sull'ambito politico, come avevamo detto l'altra volta, Cingolani favorisce in realtà questo ritorno allo sfruttamento dei giacimenti giacimenti di gas che c'ha ancora l'Italia, che secondo invece altri andrebbero mantenuti come riserva. E quindi il caro comandante, questa storia della cattura e stoccaggio, almeno in Italia, è correlata ai soliti, sembra, potrebbe, diciamo, se vogliamo fare dietrologia, ai soliti scambi, perché come al solito, quando l'unico, purtroppo abbiamo un mono investitore, l'ENI, in queste cose entra l'abbiamo già visto per la fusione, entra in gioco, bisogna sempre chiedersi perché e in cambio di cosa, no? Lo fa. Nel caso dello stoccaggio della CO2 in Adriatico è chiaramente correlato all'utilizzo di quei giacimenti per poi fare. Dicevo, sulla CO2 ci ritorniamo perché poi oggi leggevamo i difetti e le cose. Comunque i progetti pilota ci stanno, ma stiamo ancora in una fase pre-sperimentale. In questo senso lo scenario più auspicabile è pure quello che attualmente sembra il più difficile da raggiungere, cioè il fatto che noi prendiamo la CO2, la togliamo e risolviamo il problema. Se sei d'accordo, comandante, mandiamo un'altra canzoncina. Sì, no? Volevo, dai, prima che mandiamo la canzone, volevo, nel rapporto c'è proprio questo ammonimento da parte degli scienziati e dice testualmente: il rapporto fornisce nuove stime sulle possibilità di superare il livello di riscaldamento globale di 1,5 gradi nei prossimi decenni, a meno che non ci siano riduzioni immediate, rapide su larga scala delle emissioni di gas serra. Vi si legge: limitare il riscaldamento a circa 1,5 gradi o addirittura a 2 sarà un obiettivo fuori da ogni portata. Ecco, questa è la cosa, la novità poi, se vogliamo, rispetto a tutto quello che abbiamo detto fino a 6 mesi fa, prima che uscisse questo, è che gli scenari 1,5 e 2 che prima erano i peggio sono diventati lo scenario migliore. Cioè, sì, è vero, perché fino all'anno scorso dicevamo che fino all'anno scorso diciamo, vabbè, speriamo di contenerlo entro i 2, sì, però diciamo di contenerlo entro gli 1,5. Adesso gli 1,5 sono dati, il 2 diciamo è probabile, sì, e la situazione è questa qui. Quindi adesso riprendiamo con la seconda e ultima parte, diciamo la seconda metà del rapporto, e con il confronto con i decisori politici, cosa vogliono fare dopo questa nuova canzoncina, sempre dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Oggi facciamo una rassegna. Il mondo mio mi sembra, sarà che ho 28 anni e mi distraggo ancora molto perché figli non ne ho. Ne ho avuto un tempo uno, me l'hanno sequestrato. Parlar da solo in tribunale, questo è il mio reato. Non credo agli avvocati, non è lì la mia ragione. Ingiusto è chi si inchina e chi si abitua al suo bastone. Il mondo è mio mi sembra, sarà che ho 28 anni e mi distraggo ancora molto perché figli non ne ho più. La faccia della luna oggi è bruna, non è che non ci sia, ma è come fosse andata via. La faccia della luna oggi è bruna, non è che non ci sia, ma è come fosse andata via. Avevo un giorno un campo in mezzo ad altri 100, ci coltivavo amore e fiori e un po' di sentimento. I fiori sono morti e le more avvelenate, senza pensarci troppo, hanno usato il trattamento. Ho provato a dirlo agli altri, guardate che sbagliate, se il grillo torna al campo anche voi ci guadagnate. Ascoltate tutti quanti, guardate che sbagliate, se il grillo torna al campo anche voi ci guadagnate. Hanno ammazzato i grilli, sterminato le formiche, esiliato dal petto, piedi impiccato me. La faccia della luna oggi è bruna, non è che non ci sia, ma è come fosse andata via. La faccia della luna oggi è bruna, non è che non ci sia, ma è come fosse andata via. Non è che non ci sia, ma è come fosse andata via. Non è che non ci sia, ma è come fosse andata via. Allora, eccoci tornati, dopo la faccia della luna oggi è scura, anche per quello che stiamo dicendo, come dicevano i tre ragazzi morti. Vi ricordo che questa settimana Libera Scienza e Libero Stato, ma anche a beneficio nostro, abbiamo deciso, anzi a beneficio nostro prevalentemente, cari compagni e compagne all'ascolto, fratelli e sorelle, abbiamo deciso di percorrere il rapporto dell'IPCC, dell'IPCC, cioè l'ente dell'ONU che si occupa della revisione della letteratura climatica, in sostanza di tutta la modellistica climatica globale, per fare il punto sul dove stiamo andando. E questo report, che si occupa soltanto delle basi scientifiche, e quindi soltanto della revisione della letteratura scientifica, sta dimostrando che le previsioni precedenti erano state, del report precedente sulla quale si sono basate tutti le conclusioni anche politiche di questi anni, pure tutte le nostre discussioni, erano eccessivamente ottimistiche. Cioè il sistema sta accelerando verso un incremento della temperatura globale, generata e correlata senza alcun dubbio, ancora una volta, con le emissioni di anidride carbonica e di gas serra, cioè anche il metano, nell'atmosfera, che sono aumentate vertiginosamente dal periodo preindustriale a oggi. La connessione tra emissioni di anidride carbonica e riscaldamento globale è inequivocabile, è ancora più inequivocabile se c'era bisogno, e i decisori politici sono chiamati a posizionarsi rispetto ai 5 scenari evolutivi possibili che ci ha descritto orora il comandante Jacopo. Molta parte, una cosa interessante è che molta parte del lavoro negativo, diciamo, fatto dall'uomo è irrecuperabile se non a lunghissimo tempo, e quindi molta parte delle azioni, piuttosto che rivolgersi alla mitigazione e al contenimento, devono anche rivolgersi all'adattamento. Cioè, in sostanza, è inevitabile, quasi inevitabile, che ci sarà un effetto sui ghiacci artici con la riduzione della calotta glaciale, e la scelta sarà tra un effetto grave e un effetto gravissimo, cioè con la scomparsa annuale del pack completa. Già in grande parte lo sappiamo, l'Artico il comandante Jacopo è negli interessi di tutte le potenze che si affacciano lì su, perché le rotte artiche permetteranno di risparmiare moltissimo tempo anche nel movimento delle merci, e quindi chissà caparra. Inoltre il ritiro di ghiacci apre la possibilità di sfruttare risorse sotto il mare artico. Insomma, le prime due parti le abbiamo viste, le seconde le vediamo più velocemente. La terza parte, la parte C, parla delle conseguenze e dei rischi. Una parte già l'abbiamo affrontata, no? Si prevede che tutte le regioni sperimenteranno aumenti di fattori a impatto climatico caldo, diminuzioni di quelle a impatto climatico freddo, ci saranno un incremento inevitabile, questo è inevitabile, a queste cose bisogna adattarsi, ci sarà un incremento degli eventi e gli eventi estremi, è molto probabile che il livello del mare a livello regionale continuerà a salire, con una differenza a seconda delle varie regioni, quelle che si affacciano sull'oceano e quelle che si affacciano su mari interni tipo noi. Le città intensificano localmente il riscaldamento indotto dall'uomo, e quindi un'ulteriore urbanizzazione associata ad un aumento di caldo estremo aumenteranno la gravità delle ondate di calore urbane. Noi siamo in città, quindi ci interessa, no? L'urbanizzazione causa inoltre l'aumento di precipitazioni medie e forti e genera maggiore intensità di deflusso. Ovviamente la superficie impermeabilizzata a causa dell'asfalto è maggiore, quindi localmente si creeranno gli eventi estremi, creeranno delle possibili afflussi idrici nei fiumi maggiori e nelle zone, diciamo, fortemente urbanizzate. Questo riguarda in particolar modo, lo stiamo vedendo, la Liguria è un laboratorio di questo fenomeno, perché l'incremento dei suoli urbanizzati e quindi impermeabilizzati, e la scarsa capacità di deflusso dei corsi d'acqua, ridotti poi a delle marrane, insomma a delle piccole fosse nelle zone urbane, comporta quello che vediamo tutte le volte. Questi fenomeni in correlazione con il riscaldamento climatico globale, sono destinati ad aumentare. Ecco, e poi l'ultima parte riguarda le azioni di mitigazione possibili, che sono sempre più strette, e Jacopo già vi ha fatto riferimento, in particolare facendo riferimento alla possibilità, per ora un po' fantascientifica, di stoccaggio geologico dell'anidride carbonica, che inquietante per alcuni che ci ascoltavano. In effetti uno scenario inquietante ce l'ha, perché nessuno, stanno facendo una sperimentazione, l'IPCC ritiene, e questo è un bel discorso, ci possiamo attaccare alla neutralità della scienza, ritiene che sia un sistema sicuro, cioè andare a riempire di anidride carbonica dei serbatoi geologici molto profondi, ma non, visto che non è una cosa che è mai stata fatta in natura, è vero che quei serbatoi tengono il gas, viene stoccato il gas metano all'interno, però un rischio è che venga liberata completamente. Ecco, te volevo dire, se tu te ricordi il nome di quell'incidente, c'è stato nel passato in Camerun un incidente così di stoccaggio di CO2, vero? Non era di stoccaggio, cioè era naturale, era un lago che conteneva CO2. Esatto, era il lago che conteneva negli orizzonti limnici, diciamo più profondi, orizzonti più profondi, la CO2. C'è stato un lago vulcanico, c'è stato un evento vulcanico, è uscita tutta insieme la CO2 e ovviamente la popolazione circostante è morta, perché la CO2, diciamo, in quelle concentrazioni non è solo responsabile del riscaldamento globale, ma anche del cioè, insomma, nel senso, è mortale, ecco. E quindi è necessario arrivare alle emissioni zero entro il 2050 come minimo, giusto per limitare la cosa. Poi oltre questo, che è necessario ma non è detto che ci si riuscirà, oltre questo bisogna aggiungere tutte le azioni di riduzione delle emissioni della CO2. Pure una radioascoltatrice ci chiedeva appunto gli alberi, piantare gli alberi, ecco. Sì, c'era pure un esperimento, c'è stato di andò pure in televisione, vidi un programma su Rai 3 mi pare che era, su che avevano pure calcolato che quanta CO2 si poteva assorbire ripiantando gli alberi, semplicemente utilizzando tutti quei terreni incolti che ci sono in Italia, agricoli incolti, abbandonati. Era una quantità, sì, impressionante di quanto CO2 uno poteva effettivamente assorbire. Quindi questa sarebbe fare un'opera di riforestazione globale, però d'altra, in più devi togliere, sottrarre superfici, perché poi abbiamo parlato soltanto del rapporto tecnico, cioè, poi dopo siamo tutti gli altri problemi che abbiamo sempre affrontato, il problema dell'approvvigionamento energetico, il problema della crescita continua. Anche questo report, purtroppo, alla faccia della neutralità della scienza, risente che sottintende la crescita economica globale, quindi non mette in discussione, no? Il fatto che continui a crescere tutto quanto. Il problema che abbiamo sempre sollevato è proprio questo, è il fatto che noi non esiste un'energia capace di mantenere il nostro tenore di vita, soprattutto in Occidente, che sia capace di non inquinare in questo momento, di non produrre CO2. C'è sempre un risvolto della medaglia, anche appunto nell'elettricità, nell'elettrificazione, nelle auto elettriche. Chi la produce questa elettricità? Come viene prodotta? Subentrano problemi di ambientali di natura diversa con una massiccia elettrificazione, per esempio semplicemente pensando a tutto il parco auto mondiale, le batterie, il litio, l'estrazione delle terre rare, che sono processi inquinantissimi, per esempio lo fanno solo i cinesi, in altre poche parti del mondo, perché l'Occidente se ne tiene bene alla larga per l'estrazione, perché richiede processi chimici forti che vanno a inquinare terre, lo smaltimento delle stesse batterie, lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici, certo sono inerti, quindi però comunque c'è una fabbricazione di come vengono fabbricati, quindi si produce energia, e questa energia è per le leggi della fisica, prima non esiste un motore perpetuo, il secondo principio della dinamica ce lo nega, quindi se noi vogliamo ottenere qualcosa, se tanto mi dà tanto, noi per ottenere qualcosa dobbiamo comunque pagare lo scotto in termini di inquinamento, di aumento di entropia. E infatti, se vogliamo, adesso questo stiamo girando attorno ci stiamo raccontando delle favole da un certo punto di vista. È un pochino difficile, gli scenari sono, quindi ecco, cominciamo a pensare all'adattamento. Adesso se sei d'accordo facciamo un'altra pausa e poi sì, volevo l'ultima curiosità, perché riguarda il Covid, sempre nel rapporto viene citato, certo, in questo nuovo rapporto viene preso in considerazione pure quello che è successo quando c'è stato il grande lockdown mondiale, no? Il primo lockdown, no? Quando proprio la pandemia era fuori controllo. Ovviamente c'è stato, dice questo rapporto, che immediatamente dopo il grande lockdown mondiale, subito in atmosfera, in tempi brevissimi, c'è stata una riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e di gas serra. Questo era sicuro. Per quanto riguarda i primi, cioè gli agenti inquinanti in atmosfera, si è assistito a un seppur temporaneo miglioramento della qualità, si è assistito a un temporaneo miglioramento della qualità dell'aria in tutto il pianeta. Questo è stato abbastanza immediato. Per quanto riguarda i secondi, cioè i gas serra, quindi in questo caso la CO2 e il metano, i lockdown